Cat goes on, for the night we're gonna really rock and ride. E allora proviamo a tornare in voce, anche se da quanto pare ci sono stati dei piccoli problemini. Ari, eccole, sì, oh, la voce va quindi. Ok, la voce va. La musica un po' meno. Non abbiamo capito bene. No, Jiu-Jitsu, non ci sono cascati gli arancini sulla tastiera. Fu un bicchiere. Anche se di solito l'amaro ci cade, ma questa volta no. Quindi la voce si sente, su questo ne siamo certi, ma sulla musica non sapremo. Vabbè, riproviamo dopo, speriamo che vada, anche perché sennò qua ci dovete sentire due ore che chiacchieriamo, potrebbe essere un po' pesante. Ci siamo dimenticati prima, fra le varie cose che abbiamo annunciato per la trasmissione, le nostre due chicche, cioè la prima, dalle stelle alle stalle, ovvero l'universo secondo la nostra Anna Rota, che ci illuminerà un po' su come gli astri ci accompagneranno la prossima settimana. E vi ricordiamo sempre alle ore 22 abbiamo il The Best, ovvero la cazzata della settimana. Passo il microfono perché devo tossire, scusate. E allora mi sa che siamo quasi pronti a mettere il brano dopo, facciamo di nuovo questa prova, se no non vi preoccupate, vi tedieremo con un altro po' di parole e risolveremo anche quest'altra, come dire, gliela faremo. E allora va bene, mi sa che siamo pronti, vi lasciamo e ci proviamo con salute e felicità questa un'altra volta e a tutti. Thank you so very much and let's rock and roll. Well, I'm sitting here wondering what a matchbox hold my clothes. I'm sitting here wondering what a matchbox hold my clothes. I ain't got no match, got a long way to go. Long way from home. Yeah, I'm an old poor boy. Long way from home. If I'll never be happy, everything I do is wrong. Eccoci qua, era Shake, Rattle, Rattle and Roll by the Killer. La qualità non era bassa, ma ritrovare brani rock and roll di una certa epoca, diciamo, non tutti sono stati rimasterizzati e per questo la qualità audio a volte è quella di un brano trasportato da un vinile che è stato trasportato su una cassetta che poi sarà arrivato su un CD che poi piano piano, quando è arrivata l'era digitale, sarà arrivato anche su YouTube, ma con tutti i trasporti che insomma la tecnologia in questo momento vuole. Abbiamo deciso per questa il nome dell'artista, erano quanto sei carino, sempre colpa del supplì, scusate la tosse, ma è veramente difficile. Carl Perkins, e anche suo era il brano che avevamo sentito prima, Matchbox, che si sentiva un po' così e così, che diciamo è uno degli esponenti di questo genere musicale che tutti conoscono, ma chissà quanto ne conosciamo. E difatti la prima domanda alla quale vi rimando è: che significa rock and roll? Che ce la teniamo fino alla fine della puntata, vediamo in chat cosa ne esce. Chi indovina, chi dà la migliore definizione senza utilizzare i motori di ricerca che avete di fronte a voi, perché io l'ho letta da tutti, cioè da tutti i waka waka, quindi se date risposte che sembrano copiate, ahimè, non verrete premiati. Infatti questa sera Salute e Felicità mette in palio un fantastico premio. La mia co-conduttrice e il mio conduttore non sapevano di questo, mi guardano strano, ma non vi preoccupate, se risponderete bene alla domanda vincerete un ricchio cotillon. Facciamo la domanda. Che cosa significa rock and roll? Rock around? Rock around? Però vogliamo una risposta insomma abbastanza, come dire, larga e non circoscritta solo alla definizione del termine, perché come vedremo durante l'evoluzione di questo genere musicale, rock and roll non significa proprio solo una cosa e non significa una cosa statica. Per cui vediamo che cosa ci rimandate. E babba. E un po' così. Allora iniziamo col dirci che le origini del rock and roll le possiamo ricondurre più o meno agli anni 50 e più o meno allo scenario americano. Ha una provenienza e delle origini che sono delle più varie. Andremo anche adesso a sentire vari brani appunto che hanno portato allo sviluppo del rock and roll. E a quella che veniva diciamo considerata la race music, ovvero la musica afroamericana, e quella che veniva definita la musica illibilli. Illibilli potrebbe essere un'altra. Billy Ballo, quello famoso Billy Ballo. Illibilli. Illibilli con la fiatella davanti. Quindi race music e illibilli, che sarebbe meglio riconosciuta come la rhythm and blues, la musica country. Diciamo che fra gli anni 40 e 50, insieme al jazz, al blues e al boogie woogie, hanno dato vita a quello che poi si è diciamo tradotto nel rock and roll. Ci sono influenze bianche, influenze nere, come forse non ci piacerebbe dire, ma così è stato. E adesso ci andiamo a sentire un autore afro in questo senso, che si chiama Fats Domino o Domino. E da una raccolta che appunto viene chiamata le leggende del rock and roll, e infatti lui da un certo punto di vista appunto ha dato una vera e propria mossa abbastanza veloce a dare un determinato stile che passava dal blues a quello del rock and roll. Io vi lascerei con questo brano, se non ci avete niente da dire voi? Non ci abbiamo niente da dire, a parte che ci state antipatici quelli che stanno in chat. Primo di tutti, Radio Noise. Ciao Radio Noise, ti vogliamo bene sempre e comunque, Frodo di meno, espulgetelo. Lo dobbiamo espulgere. Vedremo le varie tecniche dell'espulgione. E allora, dagli anni 50, dall'altra parte del mondo, Blueberry Hill. Oh, Blueberry Hill. 21 e 25 abbiamo sentito Fats Domino, Fats soprannome dato sicuramente per la sua stazza. Era la canzone era Blueberry Hill ed era la nostra, diciamo, il nostro secondo pezzo per introdurre l'argomento della serata, che è il rock and roll. E in questo caso parlavamo proprio della diciamo delle origini, quindi quello che veniva dal rhythm and blues in questo caso, e quindi da quella che veniva e viene considerato in qualche modo la musica nera. Scusate, ma qui ci stanno movimenti strani. Ho visto che in chat ancora nessuno si è scatenato cercando di capire un po' rock and roll che cosa significa. E prima di continuare con le notizie musicali, volevamo iniziare a parlare un po' di quello che è successo questa settimana, perché poi per il resto, come dire, mangiamo lo spuntino caldo, ma lo mangiamo con molta calma. Allora, una cosa di cui volevamo parlare nel frattempo, mentre proviamo a trovare anche il video chiaramente giusto, mi pare abbastanza chiaro, è quella che è ACTA. In realtà, se venite sul sito, che insomma in realtà su tanti siti, uno dei tanti è key.noblogs.org, potete trovare ulteriori informazioni su ACTA. ACTA è una una legge sostanzialmente a livello internazionale, che alcune persone non liberamente elette da noi hanno deciso di portare avanti. In questo momento purtroppo ACTA è stata firmata anche dalla comunità europea qualche giorno fa, appunto di portare avanti quella che è una campagna di protezione di tutti quelli che sono i brevetti nel mondo. Quindi sostanzialmente che cosa succede dal punto di vista, diciamo, per quanto riguarda anzi quello che è il web, e quindi anche transizionedifase.org, cari e care, funziona che questa radio potrebbe, se davvero ACTA venisse applicata, questa radio come tante altre radio chiuderebbe, proprio perché ACTA stabilisce che i service provider, che sono quelli che ci danno internet, e quindi ad esempio gli stessi Libero, Alice, Fostrada, Alice, Fastweb, eccetera eccetera, hanno deciso di hanno la possibilità di tanto di di mettere un servizio di polizia e di avvocati allo scopo di scovare chi sono le persone all'interno della loro rete che fanno utilizzo illegale di quello che è il servizio internet di per sé. E quindi sostanzialmente quello che succede è che se tu sei un utente che magari scarica musica, oppure che manda radio sul web, manda musica sul web in maniera, diciamo, poco appropriata, come dire, o che utilizza licenze non gradite ai vari potenti, chiaramente grazie ad ACTA queste persone possono tanto chiuderti, limitarti l'accesso al web stesso, oppure comunque ricorrere proprio dal punto di vista nei termini legali a quelle che sono le tue possibilità, quindi ad esempio mandarti una bella letterina a casa, cosa che già fanno su tante altre cose, per chiederti per quale motivo hai utilizzato internet in un determinato modo. Quindi ulteriori informazioni su che cosa è ACTA e su perché c'è una petizione a livello internazionale di chi usa libero e che si pone a favore della libertà, diciamo, della rete, le potete trovare su ki.noblogs.org. Adesso a quanto pare più o meno ce la dovremmo dovuta fare a spedirvi a trovare, diciamo, il video da mandarvi subito dopo. In questo caso abbiamo chiaramente cambiato anche computer, in questo caso è Big Joe Turner e il brano si chiama Roll Him Pete. Mi auguro che si senta in una qualità migliore di quella che era prima. Vi auguriamo un buon ascolto a tutte e a tutti. Siete collegati su transizionedifase.org e questa è Salute e Felicità. Above my head, I hear music in the air. Up above my head, Savage music in the air. Up above my head, music in the air. And I really do believe, really do believe, joy somewhere. All in my room, music everywhere. All in my home, music in the air. Up above my head, that is music in the air. Well, well, well, I really do believe, I really do believe joy somewhere. Up above my head, music in the air, music in the air. Up above my head, there is music in the air. Up above my head, there is music in the air. You know, I really do believe, I really do believe joy somewhere. All in my home, music everywhere. All in my home, singing right there. Up above my head, and it's music in the air. You know, I really do believe joy somewhere. Oh, yes, oh, yes. You heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow! One, two, three, clap, four, clap, clap. In my rocket and don't be late, baby, we're pulling out about half past eight. Going round the corner and get a bill. Everybody in my car's gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along. Pronto, pronto, brava? Va? Si va? 21:39. Vai. Vado? 21:39, salute e felicità. Siamo tornati e ci siamo sentiti tre brani. Abbiamo iniziato con Roll and Pat di Big Joe Turner e abbiamo iniziato con quel brano perché diciamo la sfida che c'è nelle discussioni un po' teoriche del rock and roll è stato qual è stato il primo pezzo inciso. Big Joe Turner possiamo considerare un precursore del rock and roll, ma siamo ancora al 1939 con il brano che abbiamo sentito precedentemente, per cui diciamo siamo ancora alle origini. Dopo di lui abbiamo sentito Sister Rosetta Tharpe, che è una delle prime voci femminili che compare fra gli anni 30 e 40 e porta un po' di R&B, si potrebbe dire quasi, un po' di soul, anche altro genere appunto precursore del rock and roll. Abbiamo iniziato con Big Joe Turner anche perché è uno dei grandi che consideriamo della musica rock and roll, un grande che ha iniziato come tutti i grandi neroni americani, per cui ha iniziato a cantare per le strade, ha iniziato a cantare nei club dopo aver fatto il barista e il cuoco nella città di Kansas City, ma già dall'età di 15 anni componeva e cantava. Siamo passate poi appunto a Sister Rosetta Tharpe che nel 1938 con le sue canzoni gospel appunto come dicevamo raggiungeva immediatamente i picchi delle classifiche, e abbiamo sentito per ultimo Jackie Branson and His Delta Cats con una canzone che si intitola Rocket 88 o 88 che forse è meglio, e è considerato diciamo questo probabilmente il primo brano che fu registrato, il primo brano un po' più puramente rock and roll. Questa canzone Rocket 88 non fu scritta da chi l'avete sentita cantare, ma da un ragazzo di 19 anni che gli piaceva scrivere canzoni evidentemente. E allora prima di andare avanti con la prossima musica diamo qualche aggiornamento su quello che è successo questa settimana, quindi passo il microfono e vediamo che cosa è successo. Che dire, sicuramente questa settimana sono successe un po' di cose tipo ci sono stati gli scioperi dei tassisti, ci sono stati coloro che hanno, addirittura i pescatori sono andati a Montecitorio e ci hanno preso anche un sacco di botte, però che sta succedendo in realtà in questo paese? Ed è brutto avere un solo microfono perché sembra che parlo da sola. Allora, sostanzialmente sta succedendo che il governo ha dato il via alla seconda parte di quella che era la seconda parte del decreto Salva l'Italia, che non è proprio il decreto Salva l'Italia, visto che con la manovra del 4 novembre avevano fatto abbastanza. Ora stanno partendo con le liberalizzazioni sostanzialmente. E dal prossimo, cioè con il prossimo decreto, partiranno una serie di liberalizzazioni all'interno di varie categorie, ne parlavamo già la volta scorsa. Sicuramente, sono stati annunciati numerosi scioperi, la prossima settimana avremo niente che poco di meno i medici di base a scioperare per il decreto sulle liberalizzazioni, pare che si siano fermati funzionate le farmacie, o quantomeno non sono ancora sicure che sciopereranno, mentre invece la notizia, come dire, che spaventa un po' tutti i romani e non, è che i benzinai hanno annunciato uno sciopero di ben 10 giorni. Evviva! Io non so, aria pulita. 10 giorni, cioè penso che in questa città si accoltelleranno le pompe di benzina, cioè vedo più o meno queste scene qua. Che dire, oltre al decreto liberalizzazioni, sicuramente ne parleremo più tardi di quello che è il nuovo affondo del governo al mondo del lavoro, perché pare che siano stati stilati 4 punti per risollevare il mondo del lavoro. E poi una cosa così che non c'entra niente, che però non abbiamo detto inizio trasmissione, ed è la prima notizia di tutti i giornali. È morto l'ex presidente della Repubblica Democristiano, l'ennesimo presidente democristiano. Guarda che il comunista non è che ce va meglio, eh? Napolitano no, era comunista. Quindi è morto Scalfaro all'età di 93 anni, e quindi che dire, come diceva il manifesto che ha titoli è sempre bravo, è morto il presidente democristiano, non mi ricordo, ora cercherò la notizia il del cristiano che piace alla sinistra, che piace alla sinistra, per cui diciamo questo è un primo assaggio di quello che è successo in questa settimana, più tardi vi parleremo di altro, intanto io direi che vi lasciamo con un pezzo che vi farà scatenare tutte e tutti, perché è il manifesto del rock and roll. Allora buon ascolto a tutte e tutti, no, non vi dico chi è, me lo direte voi in chat, perché se, come dire, c'è qualcuno a cui piace il rock and roll, sicuramente la conosce o andatevela a cercare. In realtà vi volevo segnalare, se siete proprio dei lettori accaniti come lo sono io, All Music Guide to Rock, che è praticamente un'enciclopedia sulla storia del rock and roll ed è del 2002, purtroppo è solo in inglese, per cui se state parlare o meglio leggere in inglese ve la potete leggere. Tanto vi lascio a questo brano, un buon ascolto a tutte e tutti. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your bad rags on, join me home, we'll have some fun. When the clock strikes one, we're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock. Chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock. Louisiana, closer to New Orleans. Well, back up in the woods, I might be evergreens. You'll be the leader of a great big band. Many people coming from miles around. Hear you playing music when the sun go down. Maybe someday your name will be back in lights and Johnny be good tonight. Go, go, go, go. Go, come on now. Go. I say go. I say go. Yeah. Sing. Sing. Sing my song. Hey. One more time. Let me hear you. Sing my song. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Shine and be good. Le 52, tornati e tornate su Salute e Felicità, una rubrica tendenzialmente queer di transizione di fase, che è la sua puntata realmente 1.0, se non sbaglio, perché la scorsa settimana dicevamo benvenute e benvenuti alla puntata 0.1. E quindi questa è la prima puntata, perché proviamo realmente a trattare dei temi che ci siamo prefissati, ma questo non è semplice perché cambiamo le case, cambiano i PC, cambiano i picchiric e quindi cambiano i governi, che cambiano i presidenti della Repubblica. Cambia tutto che, come dire, se cambia funziona e se non cambia insomma inizia a essere un problema. Quindi 21.53, Salute e Felicità è alla sua prima puntata reale. Qui ai microfoni abbiamo Alfrodo che vi stava parlando prima, Psico V che sarei io, e PC Gri che è qua vicino, che sta smanettando cose che non dovrebbe smanettare, perché io se no poi mi perdo, quindi grazie. E come dire, se vorreste una radio senza tutti questi problemi tecnici, dovete pensare che un altro mondo è possibile. Bene. La prossima volta che ci incontrate per strada, smollateci una 50 euro e noi compreremo sicuramente una strumentazione tecnica adeguata per fare in modo che Salute e Felicità, come dire, divenga una web radio a 5 stelle, anche se già io queste 5 stelle ce le darei, solo per la buona volontà e per questa voglia di diffusione dell'informazione che non è mai mai poca. Comunque sì, abbiamo sentito due brani, uno di Bill Haley e come? Bill Haley. E abbiamo sentito Bill Haley e Chuck Berry. Di Bill Haley abbiamo sentito uno dei suoi maggiori successi, ovvero Rock Around the Clock, che insomma, se lo cercate su TrueBoob potete sentirlo interpretato da diversissimi autori e gruppi. E dopo su questo abbiamo anche una chicca tutta italiana su Rock Around the Clock. E diciamo che Billy Haley, al contrario di Chuck Berry, è stato uno dei primi artisti bianchi che si è esibito nella scena rock and roll, ma diciamo l'ha fatto anche abbastanza bene con questo brano, che è diciamo uno dei più conosciuti, è un po' il manifesto, come diceva prima PC Gree, del rock and roll. È molto importante come brano A, perché ci fa muovere culo, e questo è inevitabile. Secondo, perché porta proprio nel titolo una delle parole che definisce questo genere, appunto rock and roll, sul quale torneremo dopo. Anzi, rilancio la domanda: che significa rock and roll? Potete intervenire in chat, basta cliccare su chat sul sito transizionedifase.org e darci una risposta. Ma questo brano è diventato famoso anche grazie a un film che si chiama Il seme della violenza del 1955, e anche perché era la sigla di Happy Days, che penso che tutti ci ricordiamo, faceva parte appunto della colonna sonora di Happy Days. Dopo Billy Haley and the Comets, come the Comets, sì, si può dire Is Comet Comets, e abbiamo sentito invece Chuck Berry, che invece ritorniamo appunto sulla musica nera, anche lui, come l'autore precedente, diciamo ha iniziato a suonare e a cantare sin da piccolo e dalle strade, ragazzo di campagna come si definiva. La cosa interessante è che in una canzone, se non sbaglio, proprio Johnny B. Goode, Chuck Berry cantava ragazzo di campagna invece che dire ragazzo di colore, come si definiva, perché aveva paura che il brano non fosse passato alla radio, poiché come dire, non solo si sentiva ma lo si poteva anche vedere, per cui ci sono state varie sostituzioni nei pezzi, ma il successo che ha avuto è andato oltre ogni limite e frontiera, nonostante tutte le difficoltà che c'erano state, insomma, fino a quel momento. Penso che ora di passare la parola, sono le 21:57, quindi se non sbaglio ci stiamo anche avvicinando al The Best, alla cazzata del momento. Benvenuta a Sokol, che è arrivata in chat. Salutiamo anche tutti gli altri. Alla fine avete mandato lo speciale. Che speciale? Che speciale? Non lo sappiamo, non abbiamo idea. Non parliamo con i muri, ma parliamo appunto con chi è presente in chat. Quindi faccio quest'ultimo invito, e non ve lo diciamo. E poi non ve lo diciamo più, ma capiamo anche gente che si è connessa solamente adesso. Se ci state ascoltando, già siete collegati su www.transizionedifase.org. Se volete interagire con noi, avete ben due modi. Il primo è quello di cliccare su chat, e il computer brutto e cattivo vi farà due domande. Alla prima risponderete sì e alla seconda risponderete no. Se avete fatto altrimenti, spengete il vostro motore di ricerca, il vostro browser di internet, e riavviatelo, e cliccando queste due cose potrete magicamente entrare in chat, che è gratuita e fa bene alla salute, soprattutto dei conduttori. E no, Sokol la salutiamo a un pezzetto. E Jiu-Jitsu prova a dirci qualcosa sul rock and roll, che ha una sorta di aurea di rivoluzione permanente, senza tempo, di sfida a tutto, inclusa la natura stessa. John Waters. Grazie Jiu-Jitsu del tuo intervento, ma non mi pare che sia una risposta alla nostra domanda. Assolutamente non ricordiamo qual è la nostra domanda. Jiu-Jitsu scopiazza. La nostra domanda era: buongiorno Chiattona, benvenuta fra di noi. Sandrona, ho letto Chiattona, no, perché no. Abbiamo invece un'altra amica di TDF che si chiama Chiattona, quindi io leggo veramente male. Sono arrivata 21:59. Passo la parola perché ci stiamo avvicinando a una cosa. Yes. E allora, cari e care, innanzitutto la prima cosa che farò adesso è farvi sentire il vero spottino di Acta. Vi ricordo di andare su key.noblogs.org e poi a quel punto saranno le 22 e allora è arrivato il nostro simpatico momento del Sampli The Best. Un buon ascolto a tutte e a tutti, siete su Salute e Felicità, una rubrica tendenzialmente queer che va in onda tutte le domeniche dalle 21 alle 23 su transizionedifase.org. Ce la possiamo fare. Buon ascolto a tutti e a tutte. Can you imagine your internet service provider policing everything you do online? Can you imagine generic drugs that could save lives being banned? Can you imagine seeds that could feed thousands being controlled and withheld in the name of patents? This will become reality with ACTA. ACTA is the anti-counterfeiting trade agreement. Disguised as a trade agreement, ACTA goes much, much further than that. For the past 3 years, ACTA has been negotiated in secret by 39 countries. But the negotiators are not democratically elected representatives. They don't represent us, but they are deciding laws behind our backs. Bypassing our democratic processes, they impose new criminal sanctions to stop online file sharing. ACTA aims to make internet service and access providers legally responsible for what their users do online, turning them into private copyright police and judge, censoring their networks. The chilling effects on free speech would be terrible. In the name of patents, ACTA would give large corporations the power to stop generic drugs before they reach the people who need them, and to stop the use of certain seeds for crops. The European Parliament will soon vote on ACTA. This vote will be the occasion to say no, once and for all, to this dangerous treaty. As citizens, we must urge our representatives to reject ACTA. Un attimo solamente prima della tesissima. Che te so, Fernando, scusa, scusate, però questa sera i due conduttori mi stanno boicottando. Cioè, io me ne vado, indignata me ne vado, guarda. Meno male che vuole i microfoni buoni, pensa come si sentiva. Capirai. Col microfono decente, manco quello buono. Va bene, tornano a boicottarmi, che dire, visto che ci abbiamo avuto un po' di problemi con la questione dell'oroscopo eccetera, volevo fare un invito a tutte e tutti quelli che sono in chat, se ci scrivete il vostro segno, perché non possiamo leggere tutto l'oroscopo ovviamente, se ci scrivete, come dire, il vostro segno, noi proveremo a leggere la vostra stella, il vostro segno, va bene? Ovviamente la minoranza vincerà. Per cui se ci sono quattro ariete e un leone, vince il leone. Per cui adesso certo, noi siamo per le minoranze, quindi vince la minoranza. Ecco qua, gemelli, acquario, pesci, acquario. E prima io gemelli. Non era una gara di cose. E vince Sagittario. Vi odio Sagittario, vi odio tutti. Allora, diciamo che ad oggi sono pari merito, madonna mia quanti siete, basta, mi avete fatto diventare scema. Stop alle telefonate. Stop alle telefonate, in questo momento l'ultima è Dori Dindi che vince, basta, gemelli, fai sciopi. Ok, un bacio a tutte e tutti e ora vi lascio con lei, la mitica, meravigliosa Tina Turner con Simply the Best. Un buon ascolto a tutte e tutti. E questa settimana è davvero bella, signore e signori, eh? perché il demonio esiste. Esiste, tenta e seduce pure, attenzione, eh! E allora che dire, con questo finale sfumato ve lo diciamo, signore e signori, statua quart, non vi collegate a transizionedifase.org, che loro sono comunisti. Ah, vero, vero, vero, aspetta, me l'ho dimenticato, vai, vai, vai, aspetta, c'è la musichetta, vai. State attenti alle radio indipendenti cui vi collegate, perché là dietro si potrebbe nascondere il demonio. Ebbene sì, già già. Monsignor Babbini l'ha detto. Il demonio esiste. Tenta e seduce. La finanza, il potere e il sesso sono le armi per allontanarci da Dio. Il Vangelo di questa domenica ci presenta Cristo a contatto con un demonio. Il diavolo, resosi conto che aveva davanti a sé il Figlio di Dio, si infuria e lo invita a sparire. E noi ne parliamo con Monsignor Giacomo Babbini, vescovo emerito di Grosseto. Eccellenza Bambini, per quale motivo si ha questo comportamento? Si ha questo comportamento del demonio? Demonio, demonio. Per il fatto stesso che il diavolo, il demonio, Satana, ha assoluta incompatibilità con Cristo e la santità. E dunque... Ma vuoi smette? Cioè, che dobbiamo rifare tutto il sample the best da inizio? Mamma mia, comunque. Diceva, mi scusi, signor Babbini. Cioè, scusi, signor Babbini, mi scusi, però la mia cameraman è una cessa, quindi praticamente dov'è che sviene? Dicevamo... Siamo in un lazzaretto. Mamma mia, cioè, una volta tu, una volta io, l'altra volta mi stava a cagà sotto, questa volta questa sta de fuori. Pissicri, preparati, preparati, eh. Comunque, diceva che il demonio Satana ha assoluta incompatibilità con Cristo e la santità, e dunque... avvistato quello che è il suo nemico naturale, cerca di cacciarlo, si arrabbia davvero. Insomma, il compito naturale del diavolo è... è? La stessa parola diavolo significa colui che mette divisione, che separa da Dio. Il demonio, no, il dominio. Che è il la stessa cosa. Punto org, punto net, punto il vabbè, il demonio si può sbagliare. Questa radio, mamma mia. È colui che non si stanca mai di tramare, assare l'uomo. Ma quante cazzo ne dice questo? Non per inimicizia, attenzione. No, ma solo per istigarlo a libellarsi. Ma guarda, addio però. Allora, noi vogliamo dire una cosa. Ma chi è Dio? Ma innanzitutto, chi è Dio? Ce lo vogliamo dire. Esiste davvero il diavolo? Ecco, ma esiste davvero Dio? È la domanda che faremo al simpatico Monsignor Babbini, che si è aggiudicato il Sampi the Best di questa settimana. E poi vorremmo dire anche una cosa. Diciamo che se davvero fosse... cioè, finanza, potere e sesso, le armi per allontanarci da Dio. Cioè, solo sesso ci abbiamo, finanza e potere, qua, solo manco il sesso. Che c'è rimasto? Che dire, un'altra cosa. Innanzitutto è Babbini e non bambini, come Ninni Infanti. Così, per rispondere a chi in chat si chiedeva chi fosse Babbini, bambini. E poi perché ci insultate così? Non è bello questa cosa. Sì, non ve se può sentire, ho letto a un certo punto. No, scusate, ecco un'altra chicca. Ecco, allora, in che modo il nemico assale l'uomo? Monsignora Babbina, perché si coniuga, si declina. Come si coniuga? Dipende. Però, ci dica, in che modo il nemico assale l'uomo? Lo tenta. Approfitta tenta. Della... Tenta. Se te soffri il naso, ti dicevamo... Io 30, io 27. Comunque, vabbè, 3 io anni. Io non gliela posso fare. 3 anni non è approfitta troppo, della sua debolezza, seducendolo. E l'uomo, perché madre, attenzione, l'uomo che è debole ci casca. E l'uomo donna? È fatto di carne e ci casca. E la donna non esiste, la donna. Lavava il pavimento, la donna. Della chiesa, probabilmente. Probabilmente, sì. Prendiamo una delle seduzioni principali. Attenzione, l'orgoglio. Questo elemento è tipico di Satana. E l'uomo a sua volta si dimostra orgoglioso, vanitoso, pronto per il prestigio a commettere tanti peccati. E la donna? Strizza il mocio. Strizza il mocio. Vabbè, siete sempre ambigui comunque, ma io non voglio dire niente. Misto mocio, ma non si dice. Va bene, in ogni caso, allora annoveriamo anche per questa prima puntata, ci voleva una notizia sulla chiesa e sullo stato dell'arte di queste persone, che davvero non si sa in che mondo vivono. In ogni caso, potere, finanza e sesso portano al male. Non acquisite potere. Non fate sesso e non compratevi le azioni della Parmalat, perché sono una sola. Se quella si vede, potete comprare. Sei nella chiesa? Sei nella chiesa? Ah, vero. Fai una buona azione. Attenzione, chiamiamo Monsignor Babbina. Aspetta, c'è una cosa che vogliono dire. Ci dica. Basta. Babbini tornasse nella sua fossa. 22:14, per cui questi 14 minuti di merda spropulsata dal Monsignor Babbini, lo salutiamo verso le nuove sfere e facciamo un piccolo stacchetto musicale e torniamo con Noi siamo figli delle stelle. Purtroppo questa sera la nostra inviata Anna Rota ha avuto dei problemi tecnici, per cui chiameremo il suo spirito qui nel nostro studio fantastico di registrazione a parlarci dell'oroscopo. Ci avete detto i vostri segni, vedremo come andranno. E allora vi lasciamo a Chubby Checker con Let's Twist Again. Siamo arrivati al 1961 in questa scoperta del rock and roll per questa sera. Ritorniamo alle stelle e vi lasciamo con Quando ti dicono sì te stessa o te stesso. A quale te si riferiscono? 22:17 arriviamo a questo momento delle stelle che ci accompagnerà durante la settimana. Le stelle, queste ingrate, ci fanno sognare, ci fanno amare, ci fanno disperare. Ah, pensavo altro. No. Ci fanno anche scopare. Leggiamo il nostro primo segno, gemelli. In che senso? Gemelli, il primo segno che vogliamo leggere questa sera è gemelli. Ora metto Aura di Anna Rota in mia testa e mi collego con lei spiritualmente. Con la luna crescente nel dodicesimo settore sembra un lunedì un po' fiacco, adatto più alle riflessioni che all'azione. Gemelli, stai a casa. Siete in un momento in cui sono alcune cosette che non vi convincono. Ci sono alcune cosette che non vi convincono, gemelli. Che c'è che non ti convince? Hai fatto la cacca brutta? Volete chiarezza? E a chiarezza allora andateci di riso in bianco. Giovedì. Di riso bianco. Si vuole chiarezza nella cacchetta. Giovedì e venerdì la luna sarà nel vostro segno. Porca miseria ladra, gemelli! Tornerete brillanti ed energici, anche pronti a prendere delle decisioni. Quindi la mattina saprete se fare caffè o caffè latte, che mi pare un'importante decisione. Diciamo che queste decisioni possono essere anche molto delicate. Quali possono essere le decisioni delicate, gemelli? Parlane con noi. Soprattutto il piano relazionale non è molto facile. Ah, ma gemelli, amore, ma sei tu gemelli? Ero no. Così ero così fuori da me che mi ero dimenticata di te. Pensa un po'. Gemelli, cazzo, mo gemelli decide qualcosa giovedì e venerdì, ci sono arrivata adesso. Chi è che mi ospita? Qualcuno che mi ospita? Frodo, a posto. Andiamo avanti, soprattutto il piano relazionale non è molto facile. Forse è arrivato il momento. Oh mamma Sara, sto sudando. Perché continuo io? Forse è arrivato il momento di verificare se le vo. Togliamo la musica. Forse è arrivato il momento di verificare se le vostre aspettative sono ancora sostenute dai fatti. Ho cambiato il tono, evidentemente. Ho sbagliato tutto. Per chi ci conosce un pochino avrà capito tutto. Però, che dire, sostenuto dai fatti. Amore. Che dire, vergine. Vergine. Amore, la prossima settimana ti porto in vacanza, facciamo così. Vergine. Settimana un po' impegnativa. Dato che quella scorsa l'hai passata a letto che l'influenza, la prossima ci scateniamo. Luna crescente nel nono settore. Settore dell'industria. Il nono è quello dell'industria. Industriatevi. Energia propositiva che vi sosterrà fino a mercoledì. Giovedì non capite più un cazzo praticamente. Qualche contrattempo nei giorni successivi potrebbe mettervi di cattivo umore, ancora di più di quello che potrei essere in questo momento. Comunque mi serve sempre un'altra casa, perché come si chiama? Bipolare. Comunque sia, potrebbe trattarsi di un problema di lavoro. Speriamo di no, perché io ho pochi soldi. O di famiglia, ne ho già abbastanza, che richiederà tempo ed energie. Raccomando, a non riesco. Un'altra cosa chiedono dalla un'altra cosa? Un'altra? Un'altra. Hai detto un'altra e non hanno capito. Un'altra. Che ne so. Che cazzo è un altro? Non lo so, raga. Comunque bella falso, si raccomanda un'altra siete casa, dicevo. Un'altra casa, sì. Si raccomanda. A prova a leggere questa parola molto difficile, è composta di due parole, di cui una è car in inglese e l'altra è control, quindi è un car control o anche autocontrol. Abbiamo qualche problema con l'autocontrollo, ma lo lasciamo un po' a sé. Fine settimana positivo da trascorrere con amici stimolanti, cioè quelli che mi preparano gnocchetto ai quattro formaggi. Per l'amore, Venere è un po' capricciosa, non create tensioni inutili. Frodo, mi trasferisco da te settimana prossima. Va bene, va bene. E allora, prima di rilasciarvi alla musica, Vi lasciamo con un altro segno che è uscito dalla nostra chat. Che segni erano usciti dalla nostra chat? Leone, Leone e Sagittario. Leggiamo il Sagittario. Sì, sì. Sagittario. Luna crescente nel sesto campo, nel sesto settore, che è quella dell'agricoltura. Dovete coltivare carciofi, melanzane, pomodori, cetrioli. Tutti allungheri. Sagittario, tanti impegni, ma sarete efficienti nel rispondere a tutto e a tutti. Tutti. Se avete una buona app sul vostro iPhone, potrete rispondere veramente a tutti, gratuitamente. Da qualche mese vi si chiede tanto. Potreste avere momenti di stitichezza, di stanchezza, o sentirvi incompresi o sottovalutati, tanto in famiglia, tanto col partner, quanto nelle situazioni lavorative. Sagittario, non vi capirà nessuno. Merda! Non scoraggiatevi. Non scoraggiatevi, ma scoraggiatevi addosso. E soprattutto, cercate di non sfogare le vostre attenzioni e il vostro malumore con chi non c'entra Nuquez. Approfittate del weekend per... Sto per tossire, scusate. No, no. Mi stai attaccando di nuovo. No. Mamma mia. È andata così bene. Ora metto microfono e mio bronco. No. Approfittate il weekend per riconciliarvi con qualcuno. E allora, a questo momento... di ricongiungimento... con le stelle... mi sta per salutare. Gemelli, andrà tutto bene. State sereni. Vergine, siate solari. Sagittario, non vi capirà nessuno. Mettetevi in chat con voi stessi e mettete su un foglio il vostro nome. Così, se nessuno parla con voi, voi potete parlare con voi stessi. Sapevatelo. Salute e felicità. If you've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow! In my rocket and don't be late, baby, we're pulling out about 8:30. Going round the corner and get a feel for everybody in my car's gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along. we always had a lot of fun with this one. The Jailhouse Rock. Hey, let's get out of here! Hey, pick them up now! Ed eccoci tornati qui di nuovo a Transizione di Fase, a Salute e Felicità. Che dire, abbiamo ascoltato prima Jackie Preston e scusate ma secondo me è la postazione che fa venire la tosse. E ora ora è finito Elvis Presley, Jailhouse Rock. Che dire, nella rubrica Salute e Felicità io detengo il posto della tristezza e quindi vi parlo delle cose brutte che fa il nostro governo. C'è chi fa la cazzata, c'è chi legge l'oroscopo, anche se era meglio se non leggeva l'oroscopo, come dire. E io vi parlerò del nuovo piano da parte di Marie Monti, o meglio della ministra Fornero, che come diceva la qui presente Cocco prima, ma sta sempre a pagne sta ministra, ho detto bene? Un coccodrillo al governo. È un coccodrillo, prima mangia i ragazzini e poi piange. Che dire, ecco a voi signore e signori la riforma del mercato del lavoro, che penso interessi tutti quelli che sono all'ascolto. E pare che si sono inventati un'altra forma contrattuale, perché prima dicono no, le dobbiamo dimezzare, nonostante pare che queste gran parte delle misure contrattuali piaccia a Confindustria, quindi non lo faranno mai. Faremo una cosa un po' più easy, soprattutto per i giovani, e si inventano il CUI. Che cos'è il CUI? Dai, ci potete arrivare. CUI o CUI? CUI, il CUI. CUI. CUI. Quando uscì immune? Quando, con la C di cane? Eh sì. Quando? Frodo, il CUI? Non è il CUI. Il CUI. No, il contratto unificato Indeterminato. No, però ci è andato vicino, dai, indeterminato da parte di ingresso. Poi l'ingresso, secondo me, lo decide sempre il padrone. Come dire, l'ingresso. Chiaramente, che vuol dire ingresso? No, vuol dire che ti assumo. La cosa per cui si sono inventati questa forma contrattuale è che c'è chi dice che una cosa che è uscita dalla porta la vogliono far rientrare dalla finestra. Per cui stanno ancora una volta tentando di colpire l'articolo 18, anche perché pare che questo contratto di ingresso valga 3 anni. Uno dice: ammazza, buono, 3 anni, mo te fanno il copro, il cococò e il job on call e tutta questa menata qua che tutti sappiamo. Job on call, tra l'altro, è senza contratto. Però c'è un però. 3 anni tu vieni assunto senza delle garanzie, nel senso che io ti assumo, però io decido l'ingresso, quindi decido che uscita. Bravissima. Per cui questa è una delle chicche che come dire, ci sta preparando il nostro governino bellino, come dire. E la prossima settimana ci sarà, tra l'altro, il tavolo con i sindacati, anche perché pare che l'unica sigla sindacale che non che ancora si batte per l'articolo 18 è la CGIL. Sappiamo tutti la CGIL che tipo di sindacato è, tra l'altro. E l'altra questione importante è la questione della cassa integrazione. Perché in realtà più che va a colpire la cassa integrazione, ma la riforma è per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali. E quindi loro che cosa fanno? Aboliscono la cassa integrazione ordinaria, abolendo quindi, inseriscono la cassa integrazione ordinaria, abolendo quella straordinaria e quella per mobilità. Per cui non si sa come, quando un'azienda è in difficoltà e licenzia 200 persone, attualmente queste persone vanno a casa percependo per un periodo un 80% dello stipendio, quindi oppure possono avere garantita la mobilità, cioè la possibilità ad un tot che non lavorano di decidere di spostarsi con le stesse condizioni contrattuali a volte. Adesso questa roba qua non ci sarà più, per cui tu vai a casa e non sai che cosa ti danno e per quanto è garantita questa cassa integrazione, tra l'altro. Che dire, ci piace? Ma a me sta cosa dei cui, cocco, cocco pro, cui è un po' come quando si parlava dei Pax, Dico, Pico, Fico, Cus. Ci avete presente il paroliere? Allora, tipo, per me si mettono intorno al tavolo e dicono: legge sul lavoro, estraiamo 3 lettere, cui. Se la P e la R poi ci stanno 2 volte, anche la C, esce cocco pro. O se si parla di diritti, esce cus, pax, dico. L'importante è che siano parole inferiori a 5 lettere. Così esce bene l'acronimo, non bisogna scrivere troppo e si guadagnano meno punti, ahimè, perché paroliere, meno lettere fai e meno punti guadagni. Governo, vinci sempre meno punti. Mannaggia te, la stella ti si rivolterà contro. Di che segno sei, governo? Governo, di che segno sei? Oddio, dal segno della stitichezza? Che non lo leggiamo il segno di Mario Monti? Lo dobbiamo. Mo lo cerchiamo, mo lo cerchiamo. Dai, che dire, dopo questa bellissima notizia che vi ho dato, la nostra solita domanda è: ma noi? Esistono le donne? Esistono? Le donne sono figlie delle stelle, stanno in aurea. Le donne, dice qui la stella. E Frodo, io e te che diciamo? Le donne? Non lo so, le donne. Se, boh. Adesso ce le ascoltiamo un po' con le donne. Ci ascoltiamo un po' di donne. E che dire, vi lascio con The Boswell Sister, Rock and Roll. Un buon ascolto a tutte e tutti. A Giovataka. Rock and roll, yeah. Rock and roll, rolling all the way. Up and down, round and round, we'll sway, we'll be swell in the spell of the broken rock and rhythm of the sea. Rock and roll, rolling round the home. Life is sweet, greeted with a song while we the sea that rolls, rolls and rolls along. Find a sweet, greeted will a song while we dance. There's romance in the rolling, rocking rhythm of the sea. Sleigh bells jingle, jing, jingling, jingling, jingling, they set your heart a-tingle. Jing, jingling, jingling, jingling, I love to hear our laughter mingle. Ha, ha, the ho, gliding through the snow. Jing, jingling, jingling, jingling, the bells have got the snowflakes dancing. Jing, jingling, jingling, jingling, old Dobbins even prancing. Jing, jingling, jingling, jingling, the night is made for sweet romancing. Ha, ha, ho, ho, through the snow we go. To a winter fairyland we go a-gliding, in a cotton candy land of frozen charms. And the way the sleigh is slipping and a-sliding brings you sliding even closer in my arms. Can't you hear the sleigh bells asking why we're single, as we fly across the snowy hills and dales? And we're happy 'cause the sleigh bells seem to jingle in the winter fairyland like wedding bells. Jing, jingling, jingling, jingling, what fun to hear the sleigh bells jingle. Jing, jingling, jingling, jingling, they set your heart a-tingle. Jing, jingling, jingling, jingling, I love to hear our laughter mingle. Ha, ha, ho, ho, gliding through the snow. Jing, jingling, jingling, jingling, the bells have got the snowflakes dancing. Jing, jingling, jingling, jingling, old Dobbins even prancing. Jing, jingling, jingling, jingling, the night is made for sweet romancing. Ha, ha, ho, ho, through the snow we go. Fairyland we go a-gliding, in a cotton candy land of frozen charms. And the way the sleigh is slipping and a-sliding brings you sliding even closer in my arms. Can't you hear the sleigh bells asking why we're single, as we fly across the snowy hills and dells? And we're happy 'cause the sleigh bells seem to jingle in the winter fairyland like wedding bells. Jing, jingling, jingling, jingling, the bells have got the snowflakes dancing. Jing, jingling, jingling, jingling, old Dobbins even prancing. Jing, jingling, jingling, jingling, the night is made for sweet romancing. Ha, ho, through the snow we go. Jing, jingling, jingling, jingling, jingling, jingling, jingling, jingling, jingling. Si torna a salute e felicità e dopo aver parlato di contratti e riforme attuali sul mondo del lavoro, purtroppo il tono dell'umore non si alza, ma in qualche modo ci facciamo anche carico e responsabilità di un'informazione collettiva e di una memoria collettiva che dobbiamo riuscire a mandare avanti, anche perché pare che più passano gli anni e più ci dimentichiamo di quello che è successo nel passato, più diciamo le generazioni vanno avanti e non abbiamo, soprattutto i giovani non hanno più i nonni e le nonne che hanno fatto la guerra. Pare che ormai il fascismo sia relegato a un'epoca storica ben troppo lontana, ma non è lontana nel momento in cui abbiamo determinate leggi e uno status sociale che sicuramente non permette la circolazione di una cittadinanza libera, se possiamo così dire, non permette neanche la circolazione dell'informazione, se non sbaglio proprio questa 22:45 ci riproviamo e la tecnologia ovviamente ha sempre i suoi vizi e i suoi pregi. Dicevamo, eravamo qui per fare in modo che questo meccanismo di informazione e di diffusione atto da Salute e Felicità passasse anche per il ricordo e la memoria, e quello che vogliamo ricordare questa domenica è quello che è passato la scorsa settimana, lo scorso venerdì, che è stato 27 gennaio. Il 65 anni fa, il 27 gennaio 1945, veniva liberato il campo di sterminio di Auschwitz. Dal 2000, per ricordare le vittime della Shoah, in tutta Europa il 27 gennaio si celebra la giornata della memoria. Come dicevo prima, giornata della memoria dovrebbe significare ricordare ciò che è successo con cause e vittime, ma questo molto spesso non si fa. Il giorno della memoria ricorda a tutto il mondo l'orrore dei campi di sterminio nazisti e il dolore delle loro vittime, ma spesso nel parlare di sterminio il pensiero corre subito alle leggi razziali e alle persecuzioni del popolo ebraico. Ma le vittime della follia nazista non furono solo ebrei. Quasi la metà degli oltre 11 milioni e mezzo di uomini, donne e bambini che hanno perso la propria vita nei lager sono stati perseguitati e uccisi per motivi diversi. Siamo qui non solo per ricordare quello che è stato il nazismo e il fascismo, ma anche per dire quello che spesso non viene detto, e come introduzione a questa cosa vorrei riportare un comunicato che è stato fatto girare dal Pink di Verona, che chiedeva all'assessore al comune se per quest'anno riuscivano a nominare la parola gay e lesbica all'interno dell'iniziativa di ricordo appunto del 27 gennaio, perché spesso questi tipi di giornate qua appunto vengono ricordate anche dal nostro sindaco Gianni Alemanno, quindi con una contraddizione stessa del personaggio che ci troviamo di fronte, un gran fascista appunto, e quindi vengono ricordate in maniera come si può dire, sotto un velo totalmente falso, non ricordando, poi ricordando a metà, ricordando in maniera parziale, facendo in modo che l'informazione si renda ambigua. Spesso si dice appunto la giornata in memoria degli ebrei, ma non furono i soli uccisi nei campi di concentramento. Tutti quanti conosciamo il triangolino rosso, i vari triangolini che venivano messi sulle braccia delle persone per essere riconosciuti da lontano. Molti conoscono il triangolo rosso che indicava i prigionieri politici, gli oppressori del regime, i partigiani arrestati e i prigionieri di guerra italiani. Pochi conoscono il triangolo verde che disegnava i criminali comuni, altri di meno conoscevano il triangolo blu che era dato agli immigrati, agli apolidi, o il triangolo viola dei testimoni di Geova. Alcuni altri conoscono il triangolo rosa, che è spesso un simbolo che viene utilizzato dal movimento omosessuale per ricordare le vittime del nazismo e del fascismo, riferito appunto al colore che veniva associato agli uomini accusati di omosessualità. E quindi c'erano gli ebrei, c'erano gli immigrati, c'erano gli apolidi, c'erano i criminali, c'erano i testimoni di Geova, c'erano gli zingari, c'erano i combattenti della Spagna repubblicana. E le donne? E le lesbiche? Mi chiedo. Le lesbiche erano le asociali, quelle senza fissa dimora, insieme alle prostitute, insieme alle profughe. E a loro veniva associato un triangolo di colore nero, perché? Non entrerei sul perché. Sono i più sepolti nell'oblio, sia della storia che delle coscienze. Alcuni dei pochi sopravvissuti continuarono ad essere perseguitati anche dopo la fine della guerra. E in Germania l'omosessualità continuò a rimanere un reato fino al 1969. Vi furono addirittura omosessuali sopravvissuti al campo di concentramento che scontarono dopo il 1945 condanne inflitte dal regime nazista. Solamente negli ultimi anni, anche grazie al dibattito sulla discriminazione relativa all'orientamento sessuale nell'ambito dell'Unione Europea, si è iniziato a rendere dignità alle sofferenze e alla morte di migliaia di uomini gay e di donne lesbiche che hanno pagato il prezzo dell'ideologia e delle violenze naziste. Io ci tenevo molto a ricordare questa cosa proprio perché spesso nei ricordi e nella memoria si tracciano diciamo linee parziali e senza le complete informazioni, e spesso pensiamo che sia stato solo il nazismo o il fascismo a rappresentare un certo tipo di orientamento e identità politica che è andata contro altre identità e soggettività. La seconda guerra mondiale è finita 70 anni fa, ma le perseguitazioni e la mancanza di diritti sono ancora oggi degli argomenti che ci stanno sulla pelle, e probabilmente a oggi non servono più i campi di concentramento, ma gli strumenti adoperati dal diktat politico sono diversi e sono ben più numerosi. Si chiamano oppressione, si chiama repressione, si chiama controllo sui corpi e sulle nostre menti. Per questo è importante ricordare, e per questo è importante andare avanti. E proviamo ad andare avanti anche con salute e felicità. Sono le 22:51, in teoria fra 10 minuti dovremo chiudere, ma come al solito non sarà così. E non, rientrando in voce, non ho detto quali erano le artiste che hanno cantato prima, e abbiamo sentito in ordine le Boswell Sisters e le Andrew Sister. Anche qui piccola nota dolente sempre dell'informazione e della presenza di determinati corpi nella musica e nella storia. Questa settimana abbiamo letto un po', approfondito questa questione del rock and roll, abbiamo cercato su libri e su internet, e la cosa paradossale è che se voi mettete storia del rock and roll, anche se esce su Wikipedia, avrete circa 60-70 autori e un solo gruppo femminile, che l'abbiamo passata prima, era Rosetta. E se invece cercate specificatamente musica rock and roll, donne, eccetera eccetera, vi accorgerete che i gruppi femminili sono stati tantissimi, come lo sono tuttora, ma nella storia, donne bianche tra l'altro, no? E nella discografia questo non viene mai citato. Siamo qui anche per questo, per dar voce a tutto ciò, e lo continuiamo a fare con non mi aspettavo questo titolo, scusate. La Joplin. No? Sì, yeah, ok. E siamo un po' indecisi fra un Dio è morto e un Blowing in the Wind. Andiamo con la Fiorella Noia, e che ha rifatto, che canta, e ha rifatto Dio è morto. Vi lasciamo 22:53. Salute e felicità. Transizionedifase.org. Mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già dentro, alle notti che dal vino son bagnate, dentro alle stanze da pastiglie trasformate, lungo le nuvole di fumo di un mondo fatto di città, essere contro ed ingoiare la nostra stanca civiltà. È un Dio che è morto ai bordi delle strade, Dio è morto nelle auto prese a rate, Dio è morto nei miti dell'estate, Dio è morto. Mi han detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede, nei miti eterni della patria e dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura, una politica che è solo far carriera, il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione mai col torto, è un Dio che è morto in tutti i campi di sterminio, Dio è morto coi miti della razza, Dio è morto con gli odi di partito, Dio è morto. Ma penso che questa tua generazione è preparata a un mondo nuovo e a una speranza appena nata, ad un futuro che ha già in mano, a una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore per tre giorni e poi risorge in ciò che noi crediamo, Dio è risorto in ciò che noi vogliamo, Dio è risorto nel mondo che faremo, Dio è risorto, Dio è risorto in ciò che noi crediamo, Dio è risorto in ciò che noi vogliamo, Dio è risorto nel mondo che faremo, Dio è risorto. Abbiamo ascoltato Dio è morto, che è dei Nomadi quando all'epoca c'era Guccini, quindi però io sono rientrata in realtà in voce per riallacciarmi ad una cosa, che alla giornata della memoria, a quello che è stato come lo sterminio degli ebrei, non solo degli ebrei ma di tutte le tutte quelle persone, anche popolazioni, ricordiamo prima Vale ricordava gli zingari, quindi il popolo rom e sinti, che anche loro hanno subito delle perdite importanti, ma chiunque, come dire, si opponeva al regime nazista e poi è anche fascista in Italia. In realtà io vi volevo segnalare, da brava lettrice, un libro molto, molto bello e molto interessante su questa storia, appunto, della condanna o del processo di uno dei gerarca nazisti, e si chiama La banalità del male di Hannah Arendt, fa parte dell'economica Feltrinelli, per cui lo trovate anche ad un buon prezzo, quindi se vi va di saperne di più e di capire anche le ragioni politiche e morali di quello che è successo, ma anche per capire un po' come sono andate le cose, vi invito a leggere questo libro. Intanto ci sarà la prossima canzone, è una donna che io amo tanto nella musica, e lei è Janis Joplin con una cover di Bob Dylan, Blowing in the Wind. My friend is blowing in the wind. even exist before it's washed to the sea. How many years must some people exist before they're allowed to be free? And how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see the answer? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times can a man look up before he sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oh, the answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. E rieccoci qua, sempre con molta calma. Scusate, aspettate un attimo, c'è un problema di fili. Ok, pronto. E allora, ci siamo sentite e sentiti. Basta questo sentite e sentiti, mi avete rotto le scatole. Io parlo al femminile. Ci siamo sentite Janis Joplin con una bellissima cover, Blowing in the Wind. E adesso, siccome diciamo un po' di persone avrebbero voluto un altro paio di segni rispetto all'oroscopo dalle stelle alle stalle. No, che ho detto? Non fa niente. E adesso andiamo con altri due segni. Ricollegati però. Salute felicità. Cancro. Questa la leggiamo erotica. La luna cresce nell'undicesimo campo. È quello medar meccanico, sta attenta a quello che usi. La luna crescente nell'undicesimo campo conferma un cielo più equilibrato. No vento, no sole, no pioggia. È anche un cielo incoraggiante. Stan migliorando delle situazioni. Ma è conveniente raccogliere le idee e programmare per poter essere efficienti e pronti anche nell'affrontare momenti più fiacchi. Erotica. Erotica. Giovedì e venerdì potrebbe esserci un calo di energia psicofisica, non si sa come si fa. Nulla di grave, basta un po' di zabbaio in armatino. Basta staccare la spina. Oddio, ne ho timore. E prendersi una pausa, salutare magari. Ah no, una pausa a salutare, magari facendo qualcosa per se stessi. O altrimenti vi potete prendere una pausa per salutare, magari. Venere. Venere è dolcissima in questo periodo, sfiorami ancora, Venere! Nel weekend, tante emozioni! Salutiamo gli amici del cancro e della cancra. La cancra, la lesbo queer. Ciao lesbo queer, salute e felicità, una rubrica tendenzialmente queer. Arriviamo ai nostri pesciolini. Wow, pesciolino, wow, che sei qua, amore. Pensavi che non l'avremmo letta, ma in verità siamo qua solo per te. Ah, perché non è entrato in chat? Comunque si è perso i commenti sul nostro Frodo che diceva: ne spogliati tutte nudo. Ma Frodo è a casa nostra, quindi lui nudo qua no. Pesci, inizio settimana di concreto. Gigi su e pesci, attenzione, pesci con la. Gigi su, penserò sulla te. Pesci. Inizio di settimana concreto grazie alla luna nel terzo settore. No, è il terzo delle cooperative. Qual è il terzo settore? No. Scopritelo su Salute e Felicità. Pesci. Cautela tra giovedì e venerdì. Da lunedì fino a giovedì fate quel che cazzo vi pare. Ma fra giovedì e venerdì andate molto tranquilli. Difatti potrebbe esserci qualche intoppo. Intoppo? Qualche intoppo? Di che genere di intoppo? Di internet? Di intestino? Di relazione? Di denaro? Forse vuol dire intappo. Ah, anche una intappo o magari una discussione antipatica in casa. Provate a stare fuori casa, è così col cazzo, fregate le stelle. Salute e felicità, vi consiglio anche come fregare le stelle. Fatevi una bella passeggiata. Una sauna. Insomma, ci potrebbe essere l'intoppo anche col partner. Ai ai ai, col partner, dobbiamo stare molto attenti. Lo volete un consiglio? Trovate, ascolta pesci. Come, scusami, no, se lo rifaccio mi parte il colpo di tosse, mi sale tutto il catarro dall'intestino. Grazie veramente. Prego, non si condivide tutto, merda. Trovate un compromesso tra impegni di lavoro e quelli privati. E qua prendi pause pranzo che la vita va molto molto meglio. Cercate di ritrovare la serenità e condividete le vostre emozioni. Non fate misteriosi, pesci! Non fate misteriosi! E allora, salute e felicità dalle stelle alle stalle. Vi lascio qua. No, dalle stalle alle stelle. Dalle stalle alle stelle, ma... C'era pure leone. C'era anche un leone, aspettate, c'era anche un leone. Leone prima della Pergine. Leone, ve lo leggiamo molto velone. Questa settimanone potrebbe partire storta a causa della luna dissonante nel decimo campo. Io direi che per domenica prossima dobbiamo assolutamente farci spiegare da Narota sta cazzo di questione del campo, perché se io vado fuori campo e non piglio, che succede? Mi esce la luna dal campo? Io ne ho timore. Comunque sia, questa settimana potrebbe partire storto a causa della nazionale di un campo. Mettete in conto un po' di tensione e malumore. Ma tutti tristi questa settimana, mortacci. Ah, raga, fate la rabbia bene. Incontriamoci. Non incontriamoci ognuno in casa, no? In casa ci stanno gli intoppi. Gli intoppi nel traffico. Ok, Frodo e Vale, scambia di casa. Rimaniamo nell'androne. Rimaniamo nell'androne del palazzo. Leone, tra mercoledì e venerdì la situazione migliora e vi sentirete rinfrancati anche grazie ad un incontro piacevole o utile che vi farà sentire nuovamente motivati. Spero che adesso vi spero che adesso vi sentiate motivati. Fine settimana all'insegna del relax. Poca voglia di uscire. Dedicatevi al partner. E se non c'è, dedicatevi a voi stesse. Ho fatto l'amore con me. Mi sono amata da me tutta la settimana. E che attese tutta settimana per stare un po' con voi, il partner. E se non ci avete il partner, voi stessi è tutta la settimana che vi state aspettando. E siccome, Leone, voi non avete il quarto campo, che era quello metalmeccanico, in contraddizione, potete usare tutti gli strumenti a vostra disposizione e divertirvi come meglio vi crediate. Credetevi. Allora, Che ti pareva? Mi sono perso il mio segno. Gigi, porca miseria, che cazzo stavi facendo? Cioè, io non capisco proprio che qui chiedono, ma poi niente, non si fa più proprio niente. Me lo prepari, moglie? Preparo quello, preparo quell'altro. 23:10, ci avete rotto i coglioni pesantemente, no, quindi andate tutti a fanculo. No. Scusate qua. Allora, scusate, è impazzita. È la luna storta, ecco. Mi sa che la luna nera è arrivata a Narota ed è entrata con la luna storta, che dire. Ma prima di chiudere questa trasmissione, allora, prima di chiudere questa trasmissione apriamo un'altra birra. Non è come prima di chiudere questa trasmissione apriamo un'altra birra. Non certo. Ritorniamo, dentro, come dire, dentro il leitmotiv della trasmissione, o meglio il live motivo musicale, cioè ritorniamo con scusa il rock and roll. Molesta, è diventata è colpa del settimo campo, quello delle intercettazioni. Oddio, sembra la Santa Anche rifatta da la Cortellesi. Allora, stavo dicendo ovviamente e mi interrompe, che torniamo nei leitmotiv della musica, per cui abbiamo un grande pezzo rock dei Chicago Blues, si chiama Reunion. E quello che abbiamo ascoltato prima, cioè un pezzo dei Nomadi, quindi di un pezzo italiano, così come Janis Joplin con Blowing in the Wind, sono un po' un'anticipazione della prossima puntata, per cui fatevi delle idee. Ultimissima cosa, che cosa significa rock and roll? Non fate vaghi in chat, non fate vaghi, cari. Vi lascio con i Chicago Blues, buon ascolto a tutte e tutti. Ed eccoci qui di nuovo, abbiamo appena ascoltato i Chicago Blues e ora vi passo Psico Blu che ci dà altre notizie sulla storia del rock e per fare un salto dagli States al nostro bel paese. Che è un formaggio famoso coi buchi un po' puzzolenti. Oddio mio, il gorgonzola? No, non è. No, il bel paese è quella rotonda cilindrica monocolore, mono... Mono tutto e vabbè, 23:18, quindi siamo un po' alla conclusione di questa trasmissione che oggi ha visto come tema principale, fondante, il rock and roll. Abbiamo cercato di entrarvici nelle sue origini e nei suoi proseguimenti. In chat, se non sbaglio, ancora nessuno si è provato a dare una definizione di rock and roll. E diciamo che dire che il rock and roll abbia una definizione è un po' troppo poco. Ma prima di arrivare al rock and roll facciamo un salto in Italia, perché nonostante questa si sia diffusa soprattutto in America e in Europa, anche in Italia i nostri cari amati cantatori italiani hanno cercato di fare il loro meglio, ovviamente facendo delle cover. Difatti il primo pezzo rock and roll che in Italia ha spopolato è stato nel 1956, quindi almeno 15 anni dopo. E indovinate un po' chi è stato ad incidere la prima versione italiana di Rock Around the Clock? È stato il quartetto Cetra. Quelli, ve lo ricordate il quartetto Cetra? Vediamo se ve la ricordate. America voglio andare, tutto lire. E ne vado, mamma mia che tristezza. Tre uomini in giacca e cravatta e una donna è veramente bianco e nero questo video. Eppure il Technicolor già era uscito, perché questo video è stato del 1960 qualcosa. Mamma, vi invito a cercare Quartetto Cetra, mamma mia dammi 100 lire su YouTube e guardate queste faccette tanto carine. Comunque sì, è stato per merito del Quartetto Cetra che in Italia arriva Rock Round the Clock nella sua versione italiana intitolata L'orologio matto, con il testo scritto da Tata Giacobetti, e proseguendo poi con altri pezzi sempre del Quartetto Cetra. Quello che adesso però ci andiamo a sentire è la Gigliola Cinguetti, anche lei con una cover di Rock Around the Clock. E a seguire sentiremo un altro pezzo italiano molto famoso tra quelli che possiamo ricordare, fra Adriano Celentano, Gigo, Little Tony, Robby Milione, Enzo Iannacci insieme a Giorgio Gaber, Ricky Sanna, Silvano Silvi, Clem Sacco, che ha anche scritto Antesignano The Rock Demenziale. Ma prima di dire tutte queste demenzialità, vi lasciamo con Gigliola Cinguetti, L'orologio matto.

E ora ritorniamo in voce per dare altre due notizie. Come dire, abbiamo ascoltato la versione di Gigliola Cinguetti di Rock Around the Clock, che è una tristezza infinita. Poi abbiamo ascoltato il Gianni Morandi nazionale con Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Va bene, mentre, come dire, il rock and roll americano sfornava una serie di persone che sarebbero stati anche un po' antesignani di quello che sarà poi il rock e quello che avverrà più tardi con la contestazione giovanile. In Italia avevamo questa roba qui, la caciotta. Noi avevamo la caciotta, il bel paese, buono bel paese, dipende. E a proposito di contestazioni e manifestazioni, che cosa non dire rispetto alla manifestazione che c'è stata ieri a Torino? I NoTav sono tornati in piazza con una protesta pacifica e determinata, e i manifestanti hanno portato carriole cariche di macerie del cantiere, alberi tagliati, filo spinato e gas lacrimogeni. Questa, come dire, è la risposta al governo Monti, che se da una parte ci uccide con i numerosi tagli che sta tirando fuori, con le numerose accise che ha fatto con la manovra e con tutta una serie di provvedimenti sul mondo del lavoro che probabilmente andranno a buon fine per quanto gli riguarda, risponde anche da un punto di vista sociale con una bella mossa, come dire, macista, direi io, emettendo ben 26 ordini cautelari per chi? I manifestanti della NoTav, per cui si sono ritrovati non solo gli arresti, ma dopo gli arresti tutta una serie di queste persone, tutta una serie di denunce, perché avevano partecipato, come dire, al corteo in cui la polizia, diciamo, non era proprio stata Alice nel paese delle meraviglie. Poi dipende che versione hai visto, perché se hai visto quello di Tim Burton dice però Alice è agguerrita, diciamo che assomigliava più a quella versione la polizia al corteo del 3 luglio della NoTav. Per cui, che dire su questa cosa, che sono tornati in piazza appunto i NoTav ancora una volta, diciamo che non vogliamo tutta una serie di opere che vanno a distruggere il territorio, e sappiamo benissimo che cosa succede quando un territorio non viene rispettato. Basta ricordare la tragedia di 15 quando c'è stata l'alluvione, oppure quando si fanno delle cose che non devono essere fatte perché ci devono essere solo dei profitti. Basta pensare all'Aquila. A proposito di questa cosa, leggevamo questa notizia fantastica. È stato iscritto nel registro degli indagati niente po' di meno che Bertolaso per omicidio colposo, per cui forse qualcosa si inizia a muovere. Che dire ancora, ieri a Napoli c'è stato anche il forum dei beni comuni partecipatissimo, quindi un pezzo di questo paese forse si sta muovendo. Noi speriamo, come dire, che riusciremo a fare qualcosa per far tornare a casa questo governo un po' così, come dire, non propriamente amico tecnico, ma non solo tecnico, proprio amico della gente. Liberi tutti soprattutto. Non passeremo, come ben sperate tutti, la canzone di Subsonico, ovviamente, perché non appartiene a questo genere musicale, anche se dipende da quanto punto guardi forse il mondo. Forse la prossima puntata vi lasciamo con un pezzo di Johnny Cash, High Good Locking. Vedo malissimo, ho pronunciato malissimo, il mio inglese fa schifo, hey, dopo... good looking! Oh my god, non avevo visto niente, era, pensa un po', era una E quella! Mi devo rifare gli occhiali, merda! Va bene, Johnny Cash, buon ascolto a tutte e tutti! Sold a pop and the dance is free. If you want a house fun. my date book over the fence. Find me one for 5 or 10 cents. Keep it till it's covered with leaves. Cause I'm writing your name down on every page. Say, hey, good looking, what you got cooking? How's about cooking something up with me? One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock. Rock and roll per salute e felicità, 23:37 e siamo andati troppo oltre, quindi vi andiamo per salutare. Rock and roll che significa? Che significa? Tendenzialmente muovere il culo. Scusate, a parte muovere il culo, un saluto speciale a Rossella che ci sente dal Belgio. Ciao, non ci sente dal Belgio, ci sente da Cannes, dalla Francia. Un'altra di quelle emigrate per le molteplici e molteplici ragioni di vita. Un bacione grande a te. E dicevamo, rock and roll che significa? Muovere il culo? Ci può iniziare ad andare bene, muovere il culo, scuotere e agitare, diciamo dondolare e rotolare potrebbe ancora andare meglio, ma quello che è nascosto dietro rock and roll è ben altro, e per sintetizzarlo vi vorrei leggere un pezzo di Michael Ventura, un avventuriero del Novecento, che dice... Che non è sventura, no. No. Gli ex schiavi neri di New Orleans solevano chiamare la vagina Jerry Roll, rotolo di gelatina, già più di 100 anni fa. Quanto al rock and roll, era un termine usato nei bordelli del sud molto tempo prima di quando, negli anni 40, si incominciò a sentire in giro una musica senza nome. Rock and roll in questi locali, prima di divenire il nome di un nuovo genere musicale, era sinonimo di to fuck, ovvero scopare. Rock significava da solo la stessa cosa fino agli anni 20 nel New Orleans, e rock and roll non era una variazione del tema. Quando i banchi incominciavano a misurarsi con il nuovo stile musicale e si cominciò a sentirne le canzoni alla radio come Rock Around the Clock e Good Rocking Tonight, il significato non era cambiato. La parola ricorreva con tale fluenza che la nuova musica iniziò ad essere chiamata da DJ che non sapevano che cosa dicevano o che erano troppo furbi per ammettere ciò che sapevano. Così il termine rimase. Rock and roll è stato un termine quindi utilizzato prima per definire determinate ambientazioni anche riferite a, appunto, al sesso e alla sessualità, parole e termini che non potevano essere detti e citati per molteplici motivi che penso più o meno sappiamo tutte e tutti. Rock and roll era una parola utilizzata dai musicisti neri per fare musica verso altri neri, per invogliare e incitare a quello che era il sesso. D'altronde rock and roll è la terza parola dopo altre due: droga, sesso e rock and roll. Mi pare chiaro ed evidente quello che il rock and roll in qualche modo ha rappresentato, come tanti altri generi, anche il manifestarsi di una musica nera e oppressa, che era quella soprattutto diciamo americana e dei neri d'America. E con questo vi stiamo per salutare, sono le 23:40, ma c'è qualcuno qua che vuole dire una cosa? Secondo me, a parte che la sesso droga è rock and roll, e non droga sesso rock and roll, innanzitutto, così, su una rubrica di rock and roll sbagliamo anche come si dice. Secondo me questa cosa del sesso, droga e rock and roll appartiene più alla prossima puntata. È più legata a quell'ambiente là, è da lì che deriva questa cosa. Belli dannati o drogati, perché erano tutti drogati. E niente. Buonanotte. Ah, io ti devo chiedere una cosa. A chi devi chiedere una cosa? Va bene, io vi auguro la buonanotte, e l'ultimo di noi tre presenterà il pezzo che dà il via alla prossima puntata, come dire. Chiude aprendo, quindi vi lascio un attimo gli altri. Buonanotte a tutte e tutti. Ah, buonanotte soprattutto ad una persona che vive in Normandia, un bacio. No, io l'unica cosa che volevo aggiungere è che chi ci ha seguito dall'inizio, grazie a tutti quelli che sono in chat, da Chopi, Clash, Doridini, Gigi, bella Gigi, Candy, Lesbo Queer, Mimi, Bella Fausti, Orien, Salute Felicità, Wilma, grazie a tutti quelli che si sono connessi prima e dopo e durante. Se siamo sbattuti pure stasera, ci siamo dovuti mangiare 11 supplì e berci 3 birre solo per voi, solo qui con mixer e computer e tanta fatica, ma salute e felicità, non lo fare, falla. Ma salute e felicità esiste, resisterà ed esisterà solo grazie anche a voi e a quella che dobbiamo chiamare una tessitura di informazione a ragnatela. Cioè, raga, dovete far girare sta voce che c'è salute e felicità. Cioè, armadino, quando incontrate l'altra gente, dovete dire: che cazzo fai domenica sera, stronzo? Dove vai? Che fai? Che t'ascolti? A canna è radio. Ma o anche. O anche ma sentitevi salute e felicità. Cioè, una radio fatta dai compagni e dai compagni. Cioè, è una radio compagna, una radio. Cioè, una radio eccentrica, indipendente, autoprodotta. A noi ci piace, è il biologico. È un po' come quando vado al Forta la domenica, il terra terra che mi mangio a merda, però è autoprodotta, quindi va bene. No, no. E calla. Ho creato incidente di percorso. No, era per dire. Biologico si dice. Vabbè, a canna, basta. A canna, basta. Insomma, e lo scopo era. La prossima domenica ognuno di voi, ognuna di voi deve portare almeno 5 amiche in chat. Io l'ho già sentita. Come quando si faceva in assemblea, raga. Cioè, 5 volantini, 25 persone. 25 persone, quella dopo 50. Se no il mondo non si cambia. Ciao, mi raccomando, eh. Bella. Ciao, ciao. Ciao, Ni. Sembravi quella de... Facciamo patate, peselle. Quella de verdone, cioè, presente? Vabbè, insomma, sì. A parte che chiaramente anch'io saluto... Non è che questa preferenza della gente che abita in Normandia. Io saluto chi sta a York, invece. Stai in chat. Yes. E no a New York, perché sennò col cazzo se stava a sentire saluto. Definita, ma in quella fantastica e ridente cittadina di York, detto anche in ogni caso, no, va bene. Andiamo sulle cose serie. Vi volevo ricordare che domani dalle 21.30, se vi collegate su transizionedifase.org, c'è una cosa un sacco figa. Si chiama Laboratorio di Scrittura Creativa, che lo organizza l'associazione Coes. Cioè, io non lo so, comunque c'è. Davvero, davvero, davvero. Era il momento. Domenica prossima mi faccio passare a frettone. No, ti fai 5 giorni d'aerosol. Comunque, da lunedì. Ho già fatti. Vabbè, dicevamo. Mannaggia, ma miseria. Quando guardiamo noi, cioè. Certo. E allora vi dicevo che. Su tradizione di fase. Infatti, parla e non si soffia il naso. No, una volta però stava pure per svenire. Comunque, laboratorio di scrittura creativa. Lunedì 30 gennaio dalle ore 21.30 su transizione di fase verrà trasmessa dalle officine Babilonia, che stanno nella zona liberata di via Mancini a Cosenza. Il laboratorio di scrittura creativa organizzato dalla casa editrice Coessenza. Questa puntata si ispira al colore del bianco e darà la possibilità di essere partecipanti attivi e autentici del laboratorio. Vi invito a dare un orecchio, diciamo, a questa cosa, perché è un'esperienza molto interessante. È un laboratorio di scrittura che si tiene lì, però sostanzialmente transizione di fase, insieme a tanta altra gente che si sbatte, come diceva V prima, vi dà la possibilità, anche se siete distanti, nel partecipare in toto a quello che è il workshop di ogni settimana. Quindi, insomma, vi invito a domani sera alle 21.30 a collegarvi su transizionedifase.org. Che dire, insomma, abbiamo parlato abbastanza, siamo anche relativamente stanchi, lo possiamo dire? Sì, siamo abbastanza stanchi. Poi voi fumate quelle cose strane che non capisco, comunque. Poi mi diventano sempre più viola qui, comunque. Va bene. E allora, che dire, vi lascio, come diceva Cri prima, vi lascio al brano che ci introduce a quello che è il tema della settimana prossima, che comunque è sempre rock and roll. Ma ci spingiamo un po' più avanti con gli anni. Parlare di rock and roll in una puntata parlare del rock and roll in una puntata sarebbe stato... cioè, ci abbiamo provato, però chiaramente c'è tanta roba che magari abbiamo scordato altro. Vi auguro una buonanotte, un buon ascolto a tutti e a tutte. Loro sono i Led Zeppelin e questo brano si chiama appunto Rock and Roll. Woohoo! No, guarda che la vicina te schioppa. Cioè, buonanotte a tutti e a tutte.